dove mare luce che ti tira fuori dal vento, sulle vecchie terrazze vicino al golfo di Sorrento. Una mamma c'è una ragazza dopo che avevo pianto, poi si schiaccia la voce e ti cammini cercando. Ti voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. Salila на баре, п'яна шля Доменика. Senti le dolore della musica, il sesso del pianoforte. Ma quando vedi la luna uscire di una notte, è sempre più dolce che la volta. Ti voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. Tanto, tanto, tanto, tanto. Della lirica dove ne drama in falso, che con un po' di trucchi con le mimiche puoi diventare un altro. Ma i due che te guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole che affondano pensieri.